Nello scorso mese di marzo, con il propagarsi esponenziale del contagio Covid-19, scoppiarono un po' ovunque nelle carceri italiane rivolte e proteste, compresi i carceri milanesi di Opera e San Vittore. A scatenarle, le condizioni di degrado e sovraffollamento in cui sono costretti a vivere migliaia di detenuti, aggravate dall'assenza di dispositivi e misure preventive alla diffusione del contagio. Abbiamo visto detenuti sui tetti, materassi dati alle fiamme, scene che rimandavano alle lotte degli anni 70 e come allora la risposta dello Stato è stata la violenta repressione che ha portato ad almeno 15 morti. Ma qual è oggi la situazione a 2 mesi da quelle rivolte? Facciamo il punto con un operatore del terzo settore che fa intervento nelle carceri milanesi. Qual è oggi la situazione nelle carceri milanesi? È cambiato qualcosa dopo le rivolte di marzo e le promesse governative oppure ancora tutto come prima? Diciamo, un primo momento di grossa tensione interna, è seguita una seconda fase di, diciamo, stazionaria e una terza fase invece più costruttiva, direi su 2 elementi principali. Il primo, la ripresa dei rapporti col mondo esterno, quindi vuol dire contatti con familiari e la possibilità da parte di operatori esterni istituzionali, attenzione, quindi non il classico terzo settore o volontari, ma personale del SERP, psicologi legati alle aziende ospedaliere che ormai direi da dopo Pasqua sono impiantabile nei reparti. E questo ha portato sicuramente a una situazione un po' più di, per quanto appunto il contesto di deprivazione sia sempre faticoso, ma un po' più di serenità. E dall'altro appunto, soprattutto San Vittore, Bollate, Opera o meno elementi, hanno introdotto la possibilità di fare dei colloqui sia con i familiari che con gli avvocati attraverso portali, piattaforme come Skype, Zoom e quant'altro. Si è ridotto abbastanza il numero delle persone detenute, soprattutto su San Vittore. Voi sapete che San Vittore è una casa circondariale, quindi afferiscono persone con reati, diciamo, minori e oppure con situazioni anche di grossa fatica psicologica e psichiatrica, perché è uno dei poli nazionali più importanti a livello psichiatrico. E, diciamo che la popolazione è diminuita, la popolazione detenuta, l'elemento di fatica che ancora perdura è legato alla situazione del contenimento del virus, visto che mi chiedevi la situazione anche sanitaria. Diciamo che è una prima fase molto confusa a seguito delle rivolte anche a livello proprio sanitario, ha fatto seguito una seconda parte, una sorta di fase 2 molto restrittiva che chiaramente è andata a incidere sugli spostamenti anche delle persone all'interno dei singoli reparti, delle singole sezioni. Una curiosità, però i numeri sul contagio delle carceri milanesi non ne sono usciti. I numeri non sono chiari, non sono numeri, diciamo, esorbitanti, ecco, non è la situazione dell'RSA per capirci, perché certo. Di fatto l'RSA hanno avuto 2 elementi grossi di criticità, no? L'errore madornale della Regione Lombardia che ha trasferito i degenti dagli ospedali in RSA e il secondo elemento aver chiuso molto tardi l'ingresso alle persone esterne, familiari, certo. Contatto. Sui carceri milanesi, e chiaramente essendo un'istituzione totale come carcere repressiva, è stato molto più facile nella prima fase annullare ogni sorta di contatti con il mondo esterno, però sì, la domanda è centrata, è importante, i numeri ufficiali non ci sono, ripeto, può interessare o meno, però anche rispetto al personale che lavora all'interno dei 3 istituti penitenziari non ci sono numeri ufficiali, ci sono dei numeri ufficiosi che si possono rintracciare comodamente su internet, ma lasciano il tempo che trovano. San Vittore ha un reparto Covid. Non vuol dire che ci sono unicamente detenuti ricoverati Covid di San Vittore, ma afferiscono detenuti da tutta la regione Lombardia. Di sicuro psicologi, psichiatri, volontari e operatori del SERP, diciamo che dopo circa una ventina di giorni hanno ripreso a lavorare, e soprattutto a lavorare sul supporto psicologico e quant'altro per quanto riguarda San Vittore, dove ripeto, l'elemento di grossa criticità è stato San Vittore, al di là della rivolta del 9 marzo, che per fortuna non è degenerata come Modena, Foggia e quant'altro, livello di repressione. Ma poi chiaramente la seconda diciamo situazione da gestire non è stata solo quella sanitaria del rischio contagio, ma soprattutto delle fatiche delle persone più fragili. Certo. Sono una percentuale, lo chiamo una sorta di discarica sociale, no? Nel senso che le nuove povertà si trovano spesso a San Vittore. Certo. Anche rispetto al contesto delle misure alternative che la Procura di Milano a un certo punto ha accelerato, spesso ha coinvolto diciamo persone con vite anche e contesti sociali molto, non dico adeguati, ma molto più tutelati, mentre il povero Cristo rimane, anche se avrebbe tutti i diritti per godere di una misura alternativa, rimane segregato in carcere. Chiaro. Perché le comunità sono terrorizzate e quant'altro. Quindi questo casino del Covid ha creato, come sempre, ha penalizzato le figure, le categorie più deboli, marginali. Ultima cosa, al netto di quello che appunto ci hanno raccontato più o meno in maniera arraffazzonati media delle rivolte di marzo, nelle settimane successive sono continuate forme di agitazione anche magari meno visibili, sotto traccia, assenti dal dibattito pubblico, o gli interventi che tu dicevi sono stati sufficienti a calmare per quanto possibile le esistenze dei detenuti? No, diciamo che il vento ci ha messo qualche settimana a posarsi, perché le risposte non sono arrivate immediatamente, sia per quanto riguarda i colloqui con col mondo esterno, i familiari e quant'altro, ma soprattutto rispetto al sovraffollamento delle carceri. Quindi non ci sono state situazioni così eclatanti, perché per vari motivi le istituzioni penitenziarie di Milano hanno comunque mediato in qualche modo, però diciamo che per una ventina di giorni comunque le tensioni nei reparti si sentivano. Ripeto, ogni istituto ha la sua storia, anche è un micromondo, quindi anche in relazione con la polizia penitenziaria è differente. San Vittore, Bollate, Opera ha tante storie diverse, anche proprio nella gestione del conflitto all'interno delle parti. Diciamo che San Vittore mediaticamente è un carcere molto considerato ancora a Milano, e quindi un po' a tutti conveniva che la situazione andasse scemando. Su Bollate Opera le notizie che si hanno sono più o meno quelle che sono filtrate dai giornali, quindi una forte anche spinta, soprattutto per anche di repressiva, per poi dopo però aprire a, appunto, come dicevamo, a degli spiragli di libertà o quantomeno di relazioni con il mondo esterno. E ripeto, è stato importante l'elemento della magistratura che nell'ultimo periodo poi ha tolto un po' la miccia, ecco. Anche Napoli Monitor, sul suo sito di informazione e sulla sua pubblicazione cartacea Lo Stato delle Città, si è occupata nelle scorse settimane di quanto è successo nelle carceri nel mese di marzo, con le rivolte che dicevamo in precedenza. È con noi Riccardo, uno dei componenti della redazione di Napoli Monitor, che salutiamo e a cui chiediamo appunto qual è lo sguardo di oggi su quella situazione, qual è lo stato delle cose appunto nelle carceri femminili, ma più in generale nei rapporti tra familiari e detenuti dentro questa emergenza Covid-19. Allora, noi abbiamo seguito questa questione partendo dal sito, ma in realtà è un tipo di lavoro che facciamo su due canali, il sito di Napoli Monitor e la rivista Lo Stato delle Città, come hai detto tu. Parto dalla questione emergenza, nel senso che io mi sono trovato, o meglio, mi sono recato di proposito a Poggio Reale il giorno in cui sono scoppiate le rivolte, perché avevo intuito che, insomma, la cosa era abbastanza grossa, e perché in contemporanea cominciavano ad arrivare notizie dagli altri carceri d'Italia che, insomma, c'era un movimento a livello proprio nazionale, perché si stavano sollevando i detenuti in tutta Italia. Poi sappiamo, insomma, che le rivolte hanno portato anche addirittura a 14 morti, di cui tuttora si sa pochissimo, e che sono stati liquidati approfittando della situazione, diciamo, mediatica completamente appiattita e concentrata sulla questione dell'emergenza Covid. Sono stati liquidati come tutti e 14, o per la maggior parte, abuso di farmaci durante gli assalti alle infermerie. E quindi, diciamo, un po' sulla spinta di quello che avevo visto a Poggio Reale, dove comunque tra rivolte all'interno e presenza dei familiari all'esterno la cosa è stata abbastanza grossa, ho cominciato a provare a mettere un po' in rete, tra i contatti che abbiamo come giornale, le associazioni che si occupano di diritti dei detenuti, quindi da Antigone ad ACAD, a IAIRA, insomma, fatto un lavoro un po' di collante, e abbiamo cercato di recuperare un po' informazioni da tutta Italia rispetto a quello che stava succedendo, che era successo durante le rivolte, e soprattutto poi quello che è successo dopo, perché appunto le due conseguenze grosse sono state: uno, le morti durante la repressione proprio della rivolta. In quelle ore parliamo più o meno, diciamo, coprendole tutte da Pavia fino a Foggia, parliamo di circa 2 giorni di rivolte, ma poi, diciamo, dopo è cominciata, naturalmente a rivolte ormai sedate, sono cominciate tutta una serie di abusi, vendette, ritorsioni nei confronti dei detenuti da parte delle direzioni e della polizia penitenziaria, che sono state una pagina veramente brutta, e soprattutto assolutamente non narrata da un punto di vista mediatico, a parte il caso poi di Opera e il caso di Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta, che sono state le due situazioni forse più eclatanti, e che hanno rotto un po' il muro mediatico della narrazione sugli eventi. Mi hanno raccontato di tutto quello che era successo nel carcere di Opera dopo le rivolte, quindi pestaggi di ogni tipo, vendette più o meno esplicite, più o meno fisiche, ma anche insomma ritorsioni che non magari necessariamente pestaggi e botte, ma che anche il blocco della spesa, tutte cose spesso sul filo della legalità, della possibilità di farle e non farle, ma che naturalmente quando tu sei detenuto insomma sei un poco alla mercé di regolamenti, anche perché non c'è completamente nessun tipo di controllo su chi lavora in carcere. E quindi ho cominciato a lavorare e accumulare queste storie che sono uscite con un'inchiesta prima sul sito di Monitor, perché praticamente a un certo punto ho avuto talmente tanto materiale, queste persone mi hanno raccontato, abbiamo cominciato a parlare delle loro storie indipendentemente da quello che stava succedendo in carcere in quel momento, per cui la cosa che ho ritenuto più opportuna è stata pubblicare degli estratti delle loro voci proprio attraverso monologhi, come se fossero in dialogo tra loro, mettendomi diciamo fuori, naturalmente facendo solo un processo minimo di editing e poi di censura rispetto all'anonimato che mi richiedevano, e quindi questo è stato pubblicato sul sito. Dopodiché con lavoro con lo Stato delle Città abbiamo fatto un numero speciale tutto in cui abbiamo cercato di raccontare questi due mesi di emergenza da diverse angolazioni e da diversi punti di vista, e nel mio pezzo ho raccontato appunto questi due mesi di emergenza carceraria. Il pezzo si chiama Da Dentro a Dentro. No, abbiamo sentito molto spesso in questi mesi un parallelo tra la quarantena e le parole che richiamavano la reclusione, no? I domiciliari, certo. La chiusura, questo genere di parole qui. E io, diciamo, vivendo in contatto questi due mesi con le persone che vivevano la chiusura e allo stesso tempo l'allontanamento, cioè questa chiusura causava un allontanamento definitivo dai loro cari rispetto a quello che magari è successo a tutti noi, che potevamo comunque fare una videochiamata, certo, o avere un contatto con i nostri familiari e amici diverso. E quindi sul pezzo dello Stato delle Città ho raccontato queste storie da un altro punto di vista, non più il loro come avevo fatto sul sito, ma il mio, che entravo in contatto con loro e avevo a che fare con dei mondi che erano forse i più danneggiati, tra i più danneggiati di questa situazione, perché c'era due entità separate di un rapporto personale, entrambe recluse senza nessuna possibilità nemmeno di comunicazione. Ecco Riccardo, in questi tuoi due mesi appunto di approfondimento di queste tematiche, hai notato differenze, per quanto si possano pensare di trovare differenze in un'istituzione totale come il carcere, tra appunto reparti maschili e femminili, ovvero tra carceri e carceri, o c'è stata una sorta di omologazione generale dei vari istituti di pena verso appunto il modello coercitivo che descrivevi? Per quanto riguarda i confronti da carcere a carcere, tieni presente che io ho lavorato sulle carceri in cui ci sono state le rivolte, che naturalmente sono quelli in cui o per motivi sanitari legati al Covid o in generale le situazioni naturalmente sono più, cioè erano quelle più tese, dove è scoppiata la rivolta naturalmente perché c'erano più problemi e più situazioni di difficoltà. Opera è un carcere, il carcere più grande d'Italia, Poggio Reale è il più sovraffollato, a Poggio, dove ci sono state quelle evasioni, ci sono delle condizioni di sicurezza veramente assurde, quindi sono andato a lavorare su condizioni delicate in cui effettivamente il modello, ma anche la risposta è stata assolutamente la stessa dovunque. Un po' di percezione rispetto a qualche tra virgolette o a Si Felice o comunque a qualche carcere un po' meno disumano, L'ho avuta nel momento in cui alcuni detenuti poi hanno cominciato a essere trasferiti dalle carceri in cui erano successi i casini. È capitato, per esempio, mi è capitato che uno di loro andasse nel carcere di Bergamo, in cui pare che sia un carcere considerato a livello naturalmente istituzionale, quindi con tutti i parametri che possiamo immaginare, un carcere modello in cui effettivamente almeno la vivibilità mi è stata segnalata. Certo, questo detenuto veniva dalle mazzate di opera, era stato mandato quasi in coma, quindi non ci voleva molto a trovarsi meglio che lì, però insomma ci sono anche degli educatori particolarmente attenti, anche se in questo momento naturalmente sono stati ancora anche loro lontani dai detenuti, però per esempio esatto c'è questa situazione che è andata un po' in controcorrente, però ti devo anche diciamo per chiudere, noi diciamo il pezzo su che abbiamo fatto l'inchiesta che abbiamo fatto su Santa Maria ha avuto una grossa risonanza anche a livello nazionale, è stata molto ripresa dai giornali della RAI eccetera, per cui a un certo punto abbiamo sentito l'esigenza, per non fare la solita, non far passare il solito messaggio delle violenze, di poche mele marce, poche 20 guardie magari fasciste o invasate che picchiassero i detenuti, abbiamo cercato di accompagnare a questa inchiesta un comunicato che era abbastanza politico, che messo insieme poi alle altre due inchieste, quella di Pavia e quella di Milano, cercava di far passare il messaggio che il problema è un problema di sistema e non un problema di singole situazioni o di singoli episodi. Per fartela breve, diciamo, la telefonata che abbiamo pubblicato, le notizie delle violenze hanno avuto una risonanza enorme. Il comunicato è stato veramente ignorato da tutti, per esempio la RAI non ne ha mai fatto menzione, eccetera, e addirittura nel caso di, vabbè, tra noi ce lo possiamo dire, di chi l'ha visto, la trasmissione di Rai 3, che si era mostrata molto interessata a riprendere il pezzo, le notizie di Santa Maria, abbiamo avuto un'interlocuzione per 3-4 giorni, nel momento in cui gli è stato messo quasi un opt-out rispetto a questo discorso e quindi alla necessità di far capire attraverso il comunicato, attraverso come volessero loro, che si trattava di un problema generale e non singolo, sono spariti e non hanno mai parlato in trasmissione. Sì, diciamo per concludere che come sempre, non solo in Italia, ma sicuramente in Italia, anche in una situazione di emergenza come quella che stiamo tuttora vivendo, mettere in discussione l'istituzione carcere è tuttora un tabù, anche a fronte degli episodi drammatici, tragici e tuttora impuniti che tu ricordavi all'inizio. Sì, perché diciamo la questione è che anche chi se ne rende conto, c'è appunto una eterosia, c'è una paura anche non necessariamente materiale ma anche inconscia di esporsi, perché un po' perché c'è paura, diciamo c'è una cultura diffusa, un po' perché c'è anche paura del giudizio dell'opinione pubblica. Insomma oggi in Italia mettere in discussione il carcere è una cosa da cui siamo lontanissimi, anche se poi periodicamente anche personaggi, leggevo recentemente del giudice Borrelli che parlava di una sua conversione fuori tempo massimo rispetto al tema carcere, alle condanne eccetera, quindi anche se ci sono dei personaggi insider o comunque dei personaggi che c'è un movimento comunque attivo anticarcerario, dalla tradizione dei radicali ai militanti extraparlamentari di sinistra eccetera, nell'opinione pubblica non c'è un traino tale da far pensare che si possa mettere in discussione l'intero sistema, e di conseguenza poi con la pavidità che sempre li contraddistingue anche i media si espongono zero, anche quelli là che magari sono vicini ideologicamente a certe posizioni. Questo podcast è una produzione del Laboratorio Politico Off Topic.